Saporiello. Chiave. Chiave, chiave. Chiave. Buonasera. Quanto sei tu già? Sei alla pelle. Che non l'ho pensato bene. Non ne so la cosa, ho indicato sul baracchino. Che ci siamo, adesso ci siamo. Gara, gara. Perché un legamento staccato, ce l'aveva praticamente sotto la cartilagine della rotula, la se l'aveva portata appresso e l'aveva lasciata staccata una schiglia praticamente, e quindi probabilmente l'hanno tolta così. E devi mi facesti venire? Questi cagone, io lo so. Solo l'ambiente comunque ti fa impressione. Poi lo sai cosa è successo? Mentre io facevo anestesia alla schiena, perché stavo facendo una pericolare, perinulare, una di quelle iniezioni a praticamente la spina dorsale, no? E mentre lo stavo facendo sono entrati correndo delle infermiere e l'anestesista: dottore Coso, venga, venga, cosa è successo? C'è quel ragazzo che abbiamo operato che sta male. Cazzo male, cosa c'ha? Vomiti, nausea, mal di testa. Il dottore molla tutto a me, e vanno tutti quanti in quella cosa, sono stati rubati mezz'ora. Poi quella ragazza era in stanza mia. E magari quello là ha avuto una qualche complicazione. Vabbè, a te ti hanno abbandonato perché magari hanno visto che forse era meglio soccorrere moribondo, ma poi si è risolta la situazione con il ragazzo, oppure non si è più visto. Sì, sì, si è risolta. Si è poi addormentato e russa vago, ma si è addormentata e praticamente si è andato via, poi non è successo nulla, grazie a Dio, però è stato addormentato da quando l'ho portato in camera a quando se n'è andato. Invece io mi sono addormentato quando mi hanno fatto la prima anestesia, che mi ha detto adesso sentirà un freddo particolare, perché questa medicazione qua che serve per medicare la zona dove dobbiamo intervenire, mi porterà del freddo. Vabbè, io ho preso un freddo da niente, canta di una cosa ghiacciata, gli altri facciamo dei brividi, ma ghiacciata. E da lì deve essere che coincide, insomma, deve essere qualche anestesia, no? Loro siamo in prima detto medicazione, ma non è così. E mi sono dormito. Sì. Sì, in effetti uno può anche decidere di non addormentarsi, però che mio padre ha fatto un'operazione alla linea. Così. In anestesia locale, però lui mi ha raccontato che vedeva gli angeli, gli altri, destra e sinistra, ma quando abbiamo fatto vedere la pulella, l'insignosa, ecco, tu caro mio ti sei addormentato e hai sognato tutto quanto. Se pulella, cosa vuoi entrare? Ma se non la musica tra il telefono, invece era la televisione, questa musica anche al telefono. Cosa ti stavo dicendo? Non entrava nulla con l'erne, là. No, infatti, c'era l'anestesia, gli hanno fatto la pre-anestesia, tu mi hai raccontato, io ho visto, hanno fatto un taglio nella pancia, non sa bene che l'erne si opera, un buchetto, ma proprio un buco di 2 mm, non la cassa è rifugio, una cassa una rete continuativa. Guarda il taglio che c'è nella pancia, ma vedo la pancia non c'è niente, un buco di aria, guarda che si è segnato tutto quanto, è una fante che era qui, secondo lui, se no è che tu sei commentato. Sperdia, non fanno solo il buco, prendono anche il bisturi e incidono, poi fanno il buco con trappa, poi prendono il bisturi, stacca e incidono. Quello l'ho visto, perché praticamente la parte superiore della stanza era tutta quanta fatta cromata, tipo specchio, si vedeva tutta l'operazione tranquillamente. A posto sei già. Via. Non riesco a mettere la gamba in terra ancora, ma sono operato. Davvero, non tenevo le mani anche, comunque l'operazione è a posto, sì. Sì, no, stamattina l'operazione è andata tutto bene. Adesso devo tornare al controllo l'11, quello che mi gira le palle devo scendere la mattina a farmi controllare, ma di qua se sai non mi fido più. Vabbè, già, ti prendi il pullman nel treno, boh, ti fa accompagnare qualcuno, ce l'ha via. Ah, con mia moglie, guarda, come hai fatto tu, con mia moglie. Ma dico, è troppo lontano, capito? Forse è stato in basso, ma è lontano. Vabbè, comunque. Ma sacrificio si fa. Interessante stare meglio. Tanto mi ha detto che prima dei 15 giorni non se ne parla nemmeno a riprendersi. E poi devo fare la visita, e vedere un po' come sta andando, perché ho sentito che hanno fatto un commento, gli hanno detto, ed è iscritto anche all'unione dei medici, una cosa del genere, alla comunità dei medici, una cosa del genere. All'ordine dei medici, va, non mi veniva. Che è scritto anche all'ordine dei medici, non si deve fare la vagogna, ha detto quello che mi ha operato. Come dire, non si è accorto di quello che c'è. No, ma in casa c'è tutto bene. K. Oh, ia. Ah, che casino, guarda. Ah, oh, ia. E un po' già mi sono stressato io, perché ho visto tutti correndo per quel ragazzo che mi hanno operato e mi sono fatto un po' addosso direi in quel momento. Capito, già, scusa. Praticamente io in sala di preanestesia, no? Mi dovevano fare l'anestesia alla schiena, vabbè, la lombare praticamente quella pericolare, come si chiama. Quella lì è una vertebra e l'altra ti entrano un lago, per indulare. E ti entrano un lago e poi ti iniettano il liquido per addormentarti le gambe. Me l'avevano appena fatta, sono arrivate le infermiere della sua operatura. Dottore, dottore, venga, che è successo? Si è sentito male quel ragazzo che aveva appena operato. Ma le biliardi, tutti correnti. Ed era vomiti, nausea, non già si è ripreso. Mentre io facevo l'anestesia c'era un ragazzo che si era operato, io lo stavo operando e si è sentito male. Mentre lo operavano, non capito? Ma te lo puoi operarlo? Sì, hanno continuato a operarlo. Ha avuto delle nausee, così, nausee, vomiti, ma deve essere anche questa influenza che c'è in giro. Loro hanno preso il toppello, poi dice non è possibile, oh vabbè che anestesia questa qua gioca per scherzi, è forte. Aspetta. Aspetta, ecco qua. Vabbè, comunque la mia è andata così. Già, un attimino mi sposto dal baraccus. Me la voglio di qualcosa, dai. Guarda, prendere il cane. Aia. Arrivo subito, dai, riprendi qualche. Ehi, Cappadocio, andrà bene. Chiama, va, ma va. Abbiamo lasciato il stand by che a Sabatone se lo va del ratto. Sabatone. Prima di spostare il va. Adesso mi viene in mente il nome. Barravico. No, quello che stava parlando prima, dietro di Luca, chi era? Che stava parlando prima, ero io. No, tu stavi parlando con un altro prima, chi era? Luca. Facciamo prendere a prendere acqua dalla anestesia. Ah, Adriano, invece. Positivo, Adriano, infatti ti hai ascolto, Adriano. non mi veniva. E vabbè, è possibile, Non sono stato operato da molto. Hanno finito a mezzogiorno con me. Non si può dire l'inquietto oggi. Si sente l'effetto dell'operazione. C'è il l'ice strana. Ah, è più facile. L'ice di socio. Sassa, è ovvero, vedo con un fruscetto. Te ne sei accorto? A parte adesso che me l'ha fatto lottare tu. C'ho l'ice con un fruscetto, come quelli che si mettono la dentiera. Esatto. Perché io mai ti vedo il fatto bianco. Quanti siete qui? Se nel caso non ci sentiamo, può possibilmente tutti quanti. Ciao, tutti, ciao, Gianni. Buon proseguimento. Gianni, se non ci sentiamo, buona guarigione. Ciao. Grazie, Adriano. Ciao, ci sentiamo. Salutami a quello scalmanato da taglia di rientrare, se lo senti. Avanti. Antonio Bongo con le super salute. Buonanotte. Ci sentiamo tutta la prossima. Ah, che lo sta dicendo a me buonanotte. Sto dicendo Andrea. Ah, infatti sono dubbio, di aver ragione. Ah, tu, guarda Buduio che oggi ho telefonato, non rispondo. È una riunione. Ah, ecco, basta, basta. Allora, chiamalo un attimino, vai. No, non c'è qua. Chiamami tu, che ti devo dire una cosa, Gab. Via. Guarda, non è il problema. Adriano, è poco RT. Io ho salutato, mi ha risposto. Perché ce l'era andato. Antonio. Ho detto la camera del letto. Il fischio con la buonasera K e poi K con la falchetto e Gianni, siamo qui, Gianni Vischi, attenzione falchetto, siamo qui, dimmi tutto, aspetta aspetta che comincio ad attrezzarci. Perché, cosa è successo? Se me ne farà più il ghiaccio, aspetta, dai, arrangiati. Vedi a posto tutte le cose. Gappa gappa, andiamo a mettere a posto la puttana. Però lui, andiamo a cedere sui bici. Te lo spiego, perché qualcuno si è toccato il lineare, che deve mettere questa spatterà. Andiamo sul 10 allora, dai. Cosa? Bisogna farla anche la chitto. Sono sul 10, cavolo. Al chitto. Fatto passare su 10 e tu lo giri. E io? Vada. La? Ora? Ora, ora, ora. Ora! Ora. Uno, due, tre, prova radio. Cava. Prova, prova. Fammi, dammi il tempo, Antonio. Attenzione, Kappa, hola. Io di sì. Adesso abbasso, dai, vediamo, vediamo. Olè. Ma mi sente già. Grazie, mi sento il tempo che sono letto nei movimenti, aspetta un secondo. Sia la persona anche, non è che se non ha il carattere forte quello non succede. Vabbè. Ma veramente anche questo qua gli ha fatto male qualcosa anche. No, eravamo a digiuno da mezzanotte di ieri, come fa a fargli male qualcosa? Che sia digiuno, se non è che quello lì ha mangiato e non aveva ubbidito. Caramba, no, lo sono già. Non lo so, può darsi che sia... sicuramente allora è che non sopporta bene l'operazione, cosa ne so? Boh. Ma che cosa è però? Si è sentito male, si è addormentato tutto il giorno, addormentato è stato, gli altri giardini scherzando e cosa, sino a quando poi è passato l'effetto dell'anestesia, si è pensato, oh io. Ma no. Ma tutto bene comunque quello che finisce bene. Infatti, là, meno male, siamo andati bene, là. Sai che voglio? Lo ghiaccio, che è un pesce, là. Devo mettere il ghiaccio anche sopra al ginocchio. Aspetta che faccio le cose. Ah, no, non c'è problema. Guarda, lì. Ciao, guarda. Ecco, va a vedere, devo dire, se non ve la disciuro, guarda, pizza, bebù. Scacca che ora? Ah, Gianni, mi sono fatto uscire la notizia, non vi la disciuro. Stavamo sovramodulando da un altro canale, Falche, non ti sentivo, ti ho detto passa per insomma, invece non mi sento manco tu. E stavamo sovramodulando, c'era un splash. E lo so, Bucaretta, era il 40, eh. E già lo so, con l'attacco alla lineare, per forza. È positivo. E beh, lì. Ok. E allora, come si anda già? Sarà comuto, Zoe, sarà comuto. Sarà morto, sì. Sì, Giulia, ma stanco però, beh. No, mi sono fatto io stanotte, ma tempo brutto, Stanotte mi sa che va... Fa tempo brutto perché sento le scariche come ieri notte. Gappa gappa, staccate gli spirulotti delle antenne, sennò guai. Arrivati, ci sta ordinato il trono. Allora, mi ha citato, stavo svegliando alle 4, intendo che si trova romano, cazzo, ho detto mamma mia, non te ne prende tutta la casa. E cos'era un trono, ragazzi? Ma ne tremato, non lo vedo che ne tremato. Abbiamo uno scoppio. Cioè, si è vista una luce potente, si è vista, e poi ha tremato tutto. Pensa che alle punti è acquisita tutta la giustizia, che ci sono attesi tutti gli allarmi delle banche, cazzo, dove la mezza giustizia è esatta alle punti. Ancora attaccato l'antenna, un tugato, chiamare di bicicchia. No, ma vero che già, tutta la giustizia alle punti, cazzo. A chi si sa attese le allarme delle banche, cazzo, tutta giustizia di Sassari alle punte è scesa. Bisogna stare molto attenti, bisogna stare. Si tenta, bisogna attaccare tutto, PL, tutto gatto, capi d'antenna e televisore. Deve essere il fulmine guai. La tomba di danno. Avanti già. Guardi, quando mi vuole la giustizia non vanda, credere che è molto dura. E non li bisticheggiare mai. Allora, così funziona, allora. Via, oggi sono proprio così, non è che ne ho molta voglia. Non è che ne ho molta voglia oggi. Già, ti capisco. Adesso ti vedo un po' di sorveglianza, capito? Ma sono dalle 5 e mezza in piedi, anzi dalle 5 in piedi. Non so se mi spiego, facendomi barba, lavandomi, facendomi. Stavo radendo la gamba. Zappa zappa, riprendi tu. Antonio deve essere andato a fare qualche cosa. Che peccato. E Antonio, molti rifugi. Io adesso mi alzo e vorrei vado un po' a vedere un po' di televisore, se ce la faccio, se no mi curi che mi addormento, perché sono dolori e non riesco a stare a letto. Avevo trovato la posizione buona, poco fa qualche cosa c'è sopra. Mi aveva restituito pure la gamba, ma lui c'è con il calcio, dove il nome da di cui ha bisogno di grilli. Va bene, dai, già, se devi riposare, riposo, va, che anch'io, adesso faccio QRT anch'io, va, e se ne ascoltiamo te le proseguire, già, va, passa la buonanotte, già parte via, io sono stanco lo stesso, sono qua vedendo, ma sono stanco. Ma non riesco a stare a letto, bisogna che mi prenda qualche cosa, perché è antidolorifico, anche se io sono contro le medicine, anche se non mi rende un bene. Allora, sto facendo iniezione alla pancia, pastiglie che prendevo la prima, allora ce ne sono, 6-7 pastiglie la prima, sono 8 più l'iniezione, 9, insomma sto prendendo una decina di pastiglie al giorno. Pianino già si risolve, adesso poi come te l'hanno fatto, e poi dopo già va, dai, se fra qualche giorno si rimette a posto. Speriamo, la situazione, ma i dolori sono forti, sono ben forti, ma non aspettavo che erano così forti. No, sei così, dai. Come hai fatto la salita a fare la discesa, dai? Piano piano passa tutto. Tra qualche giorno comincia a stare meglio. Bisogna cercare di reagire piano piano, il primo passetto. E poi così andando via via. Cosa ti hanno detto? Che devi cominciare a camminare dopo quanto? Sì, camminare senza caricare, con le stampelle. Piano piano, sempre di più, va. E infatti, arratte. Poi c'è scritto fare ginnastica, ma come la fai con dolori che c'ho? No, non esiste. Vabbè, ginnastica sarebbe troppo. E piano piano qualche passetto, un giorno oggi, un giorno oggi, un giorno domani, sempre provando, e poi si va, dai. Cappagappa. Va bene. Dopo, mi faccio il salto fuori, mi fumo una sigaretta se ce la faccio, se non mi dite cose. No, non dico niente. Vediamo di no. Beh, anche ieri a casa, non mi sono alzato perché non li ho voluto, ma mi hanno detto non c'è scastarci, adesso mi alzo un pochettino e poi me ne arrivo a letto. Anzi, ci sentiamo, io mi sto chiudendo, si è chiuso anche Falchetto, ci sentiamo alle prossime, dai. Vado a vedere un po' il televisore, magari mi strago di più. Magari sotto lì nella poltrona, già. Stai un pochettino meglio. Vabbè, dai, ciao, buonanotte. Dai, ci risentiamo alle prossime. Ciao. Perché usufruisce della casa. A quattro ci sono? tre tassi, dai, al tre, manca poco al quattro. Io vado a fare quando, Danieli, da te? Quattro sei passato il segnale, lui ovviamente è più forte di Claudio, sempre. Vabbè, ma è più in alto di Claudio. Però Claudio a certi punti arriva più forte di me. Ma siete lì come segnale, poca roba vi differenzia l'uno dall'altro, ma ci siete, dai. No, Daniele, se no c'è un difetto, c'è un problema tra me e Franco, io posso ancora aumentare il dolore. l'importante è sentirsi, dai. Grazie a te, mi devo lasciare Franco, no, io sono con la potenza della radio, lui mi fotte lì da te. Un pelino sarà 35 lui. 36, 37, ma io 33, 34, ma un pelino mi fotte lì da te perché c'ha quel varco alto. C'ha quel varco alto. Poi in altre zone invece magari arrivo meglio io, eccetera. E importante che te la fare a tutti lì. Ma vai, Mori, che problemi. Vai Califano, Califano, vai! Se tu sei stato qua ad abitare con quell'ente dei ecce tuo, quelli puri, avessi staccato il culo agli uccelletti da qua. Allora, immagino la di 5 del lume che sta scoppiando di giorno. Io ci ho collegato la una della bassa, come si chiama? Della Novamara, a 14.320. C'è lo scritto la questione del cacchio, l'ho scritto. Si è letto il prodotto lì, questa cosa è, non so se è chiaro, questa è DL1G, questo è, devo mettere gli occhiali, devo per fare tutte le questioni. E mi ha detto a vedere se avevo una direttiva, no, non è una direttiva. Sto andando con l'amplificatore, 600 watt di antenna e il dipolo l'ho invertita per i 20 metri. Perché 9,22 e 9,23 modulati, deve andare, è liscio, deve andare, sia a livello di banda cittadina. No, viene lunedì, ha detto Claudio, ci pensa. E chi? Tua Speranza. Lunedì è la... Cos'è lunedì? No, è l'8. L'8 è l'Immacolata, no? Lunedì io faccio ponte. Io faccio ponte. Non ci vado, quindi mi faccio il ponte. Vero Daniele, tu cosa fai? La passerella? Allora, ora mi tocca. Dovente o volente la devo fare. Lo fai lunedì, vabbè, martedì è festa. Nel corso dei giorni mi devo recuperare. Più i tre che devo fare, normali. Poi ti avviso a tutti che lunedì non ci va, cioè la consolata Immacolata non ci va, l'otto non ci va. Poi fra vado in ferie dal 23 e rientro il 2 di gennaio. Aggiorita Pilasia Lugosio, aggiorita oggi la giornaliera di dicembre, già pronta, appesa in bacchetta dove c'è scritto che Claudio Marti risulta in ferie dal 23 al 1.2010, a rientrare il 2 se sono sano, se sono malato rientro dopo l'epifania, a cambio. E vado in ferie invece dal 23, dal 22 fino all'8 di gennaio, cava cava. E già va bene. Uia. Vai Daniele che va bene, Daniele, vai. Ehi, qua sono noi. Andava, altro le ferie, a febbraio le mie ferie a Perenni. Quindi quel filo poi quel piede le faccio io con la macchinetta che ci va. Ehi Afra, no problema, dai, domani sei già, se lo faccio prendere, se ci riesco. Andava, devo fare anche quella cosa là che ti avevo letto, ancora qua è. Ma mi hai portato sulla macchinetta per fare il piede all'officina, magari dai. Anda bene meda. Aspetta, qua se lo sto mangiando, Mandica. Sto fumando, abito, non voglio più mangiare, però fa pellet. Fai bene, no, me l'hai l'andito. Però ho tutte le tubazioni che mi scaldano, sì, nell'ambito, un'altra, una di 10.000. Ah, va bene, ma non c'è più caldo. Allora cosa, adesso che andai, io mi chiamo la macchina, che Dio vuole, quella la andiamo a rottamare. Peccato, però purtroppo è così. Poi, c'ho la moto e la macchina nuova. Allora, mi compro, adesso vedo un po', non sono indeciso, sa. Guarda, bravo, attenzione, prendiamo una Smart, una macchinetta piccola. Mamma mia, piccola sì, va bene, però buh. Cosa ci vede? Allora va bene, a trovare c'è accorgo, cazzo, cammina un casino, 150-160 va avanti. Lo so, più 140 non scende, c'è la butta quella, gasolio, turbo. Più 140 non scende. No, c'è il limitatore, la macchina automatica si ferma a 140, se no c'è il limitatore e non va. Io cammino un bel comunque, io mi sono seduto e c'è una bella tenuta di strada, c'è il culo. Ma adesso vedo Daniele cosa prendere, se no mi prendo la grande punta, la Sciusciaro, vedo un po', come quella che c'è tu, però il 1009 io turbo diesel. Eia, eia, già va bene, cazzo è brutta la morte quando c'è un bel vento che inizia a muoversi, che è una bellezza. Sì. Sai, lo lascio il fumendo. La tocca a bere. No, ma se... E poi se c'è il fumendo è tutto la rampa. Tu non lascio le sigarette, ti fanno male. Aspetta un secondo, frate, guarda un attimo, ho cucciato a piccolino, aspetta. Tu a fumarsi, Andrei, vamos, vamos. Tutti morti? Morti? Dove siete andati? Ora vado a buttarmi un cioccolato, poi lo dice un uomo, visto che non posso fumare qua in mezzo. Pare di tirare, non puoi fumare, non puoi fare nulla. Sì, ma a mangiare invece non puoi fumare, non ti come fumare una sigaretta e ti lascia sempre mangiare dei cioccolati. A me lì hanno cacchi tu cacchi cattramo. È un casino, è una storia, per carità. Male cioccolato fa male cacchio, fa male. Hai visto che ti ho comprato i biscottini? C'è l'aria. Dolcini e Vincenzi, quelli che te li mangi. Hai comprato i dolcini e Vincenzi, e me lo mangiamo. I biscottini, anche i biscottini, il cioccolatino con la crema. Ah, tutti i buoi che mi sta mangiando io dalla vetrina. I buoi, quelli tipo il mucidì. Ah, quelli della routine. Allora, ne compra la busta, Teresa, per carità, chi c'è di grande manica? Allora, se ti ci infiamma la ganna a te. No, non quelli, poi sto me. Adesso mi manca il buoero, adesso mi sto mangiando il mucidì e poi mi prendo anche il mucidì al caffè. Claro, non fumo, faccio sempre così, capito? A me piace un bel luce. A me si infiamma domenica al colazione e poi manco per prendere il caffè. Saranno. Daniele dove è andato? Con TH. A fumare è andato. Ma che perché non può fumare a camera sua? Ho proibito. Ah, fa fumare Danielito. Perché poi la moto c'è quanto si sente il fumo. Non sto più fumando in altro caso, a me qualcuno l'altro giorno me la guardo fuori dalla finestra. Sì, ma tutti un danno. La mattina per tutto l'anno è lasciato il corpice. Mi sento meno, non tocca. Sono tutte le zanzariere, apre, gira l'aria. E proprio qua, casino. La camera da letto, avete un riscaldamento cucina, allora taglia perché mi sono chiuso la porta, lì non mi interessa. Tutta questa casa, tutto dove circolo io, sopra a mare che gote e parlo non ci gote. C'è un caldo, un bacio, mi sembra che la legge è lui. Però dove ci mica e avevo la stufa. Anche il mio 12.000 funzionano molto molto bene, scaldano ancora sono anche le mutande che scaldano. Daniele, perché poi mi metto il pigiama, io sopra lì che è bello caldo e me lo infilo e me la vado dentro il letto, che è questa cosa bella. Ah no, cosa ride? Mi viene bello per quello, sta a casa al calduccio e ti che ballacche, non si può essere a casa, sono fatto mettere qualcosa, tra l'altro sono messo a letto, sono fatto per le sci, ho fatto un po' di cosette a casa, stavo ascoltando la radio, e poi siamo sentiti al telefono e siamo qua. Ognuno c'ha il suo appello e se lo gestisce lui. E ognuno c'ha la sua borsa. di tutti i suoi, più alto la sua moto, si usa la sua borsa. E così diciamo anche, lui mi ha preso la 10, ha preso la 10, mi ha preso il cricchetto, ha preso la 10, così diciamo anche quello. E infatti, almeno guai, uno prende la roba degli altri. Fanno le cose, no? Vado a dire che riguarda oggi, sì, cioè hai fatto già funzionare la testa, non è vero, non funziona. Perché io ho visto delle prove sull'apparecchiatura come ci lavoro io e se non conosci gli schemi elettrici, non è che fai così, no? E cambio a questo, non è vero da lì, devi sapere, devi saper seguire lo schema elettrico. Se c'è un problema in una macchina, non c'è lo schema elettrico a mano, non lo sai dici, fai quello che vuoi, metto gli piedi, e te lo posso garantire. Se non conosci gli schemi elettrici, sei un uomo morto. No, vai, avanti e indietro, se non ho fatto lì, non c'è in testa. Sì, è così. Dai, io torno a suonando, stai. Grazie. prenderla. Tutti gli usuri di una città, per trattare le buone. ma già lo sai che io quando vado a comprare la cosa sono pignolo per giù di te, se non è rubato non mi compareggio. Tu non mi compareggio, dici in offerta? No, ce l'ho anch'io nella proposta, guarda che se non metti la porta bene ci sono tutti i cosi, tutti quelli che ho fatto l'anno scorso, nella, come si dice, nella cassetta di la pesca della in garage, da mettere a posto c'è tutte le cose che avevi fatto, tutte quelle con filaggiune, quelle cose, le lente, c'è un bel roba, c'erano tutti gli affari, quelli che avevi piegato, i cosi come si chiama, le campanelline, le cose. Ci mettiamo a posto con la cassetta, la teniamo pronta una domenica che siamo sempre a Flamente, ci andiamo in garage, però sistemiamo tutta la roba fresca. E vogliamo sistemare perché, non perché è arrivato tra me, sistemiamo perché adesso cominciano a scendere i canali, quelli russi, quindi qualche sera si può anche provare. Almeno ci facciamo mettere la mare per Natale, che se no è un casino, qualche cinghia, qualcosa, qualche orata anche. Bisogna mettere in conto anche quello. Come l'altro giorno sono stato accompagnato, ho portato giacotta, piatto, mezzo a lecciola, minchia. Ci ho mangiato un pezzo a cena, un pezzo a pranzo, niente la mano. No, metà, un pezzettino, non so quanti chili era, che hanno regalato. Ho portato un tagliame pieno, un cazzo in forma delle patate, ma era una goccia allucinante, ma era molto grossa, quanto è spessa come carne che è. È la ricciola, sì. È la ricciola, la cernia è buona, La cernia è meglio della ricciola, come polpa. Magari mi sa che avevo sbagliato, la ricciola era 20, cioè. Ah, 20, cioè. C'era, se ho sbagliato i denti, ma è anche grossa, è spessa la carne, che è bianca bianca, buona. Adesso ci sono le orate grosse, adesso in questo periodo ci sono quelle orate alla fondale, quelle grandi, enormi. Bisogna andare a prenderle, profa. Bisogna andare a prenderle, ragazzi, se no è un bel rasino, Tu sei convinto se io scendo non le prendo? Già le prendo, non ti preoccupare. Sono sicuro che le prendi al 100%. Organizziamo le canne con i grattiti, poi la vesci di miglio, la di maduri. Sta sempre piovendo, porca miseria, dopo. Allucinante il tempo. Come se fa freddo, problemi non ne abbiamo. Già ce l'abbiamo l'attrezzatura, di antifreddo, antigelo. Come me l'acqua, che te non prepara. Capito? Per me non è solo quello. Siamo non porto il suo io a calamari. Ci mette la macchina vicino, ma lo sai, non sono in biglia. Adesso comincia a prendere quei calamari da chi, come? Andiamo, l'ho detto io, metti la macchina lì, non mi sono scivolato una volta che c'era quello del collo, ma ce li chiama, con Cagliaritano. Ci mettiamo lì, lì c'è il passaggio, ne vediamo un bel, però non ci mettiamo lì, all'altra sponda, all'altra parte. E infatti, nell'altro momento, l'altra punta lì, dove c'è il passo. Ci mettiamo lì, perché a quella parte lì erano le tue balle, Simone, tutti in attinchia, mi lì a fa, dove c'è la lampada. Andiamo a metterci dall'altra parte su. Ci mettiamo dall'altra parte, e lui è buono, onorate, a grandi, oppure a bocconi femminili, l'ha schiacciati col martello, lui a Milenco, e lanciati, a mezza morta, via. A lui ci ripiglia il Aragone, ma due, lì, con il bocco di femminella, non posso vedere, con due canne ci vado. Ma c'è da portare quelle canne da lancio, con due cannette, via. Non so, già spettato. che non tocchi la camera, non prenda l'entrata e l'uscita, capito? Certo. E già la ci apprendono, ci sistemiamo bene, già tanto io la camera, ce l'ho tutta la c'è tutto. Ci organizziamo le queste sere, cioè, guarda, se tu non lavori venerdì sera, ci organizziamo e scendiamo venerdì sera, io come esco a lavoro, basta, ti prendo e scendiamo. Certo che sì. Facciamo così, non problema. A una certa ora, ma scendiamo verso le 7, 7 e un quarto, poi alle 11, 11 e 10 ce la saliamo, va? Ciao ancora, ciao, buonanotte a tutti.